cuore e denari. Chiusura. Qua stiamo chiacchierando, come dire, a microfoni spenti. Non ho fatto nessun danno, no, Nicoletta? Assolutamente, ma noi non possiamo mai fare danni. Certo. Lorenzo, ci racconti un po' la tua storia, perché cade, come si dice in marchigiano, a cocco di pippa? Cioè, forse è Vincenzo da Napoli che aspetta da un po'. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Ma l'abbiamo fatta aspettare, Vincenzo. Ma ci scusi. Da Napoli. È stata una piacevolissima attesa. Ottimo. Buongiorno, da grazie. Napoli. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente. Oggi festa doppia, la giornata mondiale della radio, che guarda caso è proprio dedicata alle donne. Guarda, sembra proprio che l'UNESCO abbia pensato direttamente a noi, di cuore e denari, che siamo donne e lavoriamo in radio, ma non siamo solo noi. Sentite un po'. Donne, in cerca di guai. Donne, un telefono che non suona mai. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E l'occasione per questa sua presenza. Benvenuti da Anna Marino, Voci di Pippa. Come era prevedibile, apertura in rialzo per... Sul letto bis sono ormai pochi a scommettere. Appena Papa Benedetto fu eletto. Quella di oggi è una storia a due voci che racconta... Grazie Vincenzo, sollecitano decisioni... Ma una sola per ora, per la prima volta nella storia... È stata una rivoluzione anche perché per la prima volta... Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gli industriali chiedono risposte dal governo. Per la kermesse inaugurale di 3 giorni, 25. Potrebbe servire, Fausto, visto che abbiamo ancora un minuto. Mi trovate anche su Twitter, @valfurla, e trovate le ricette sulla pagina del programma. Questa cosa che ha descritto, dice, non la voglio chiamare solitudine, ma isolamento. E quelli che con gli abiti della festa addosso ormai sorridono. Il soltanto... commento di Bolagner è stato espresso. Parliamo di comfort food, restate con noi. Le avete sentite le voci delle donne di Radio 24, ma ricordiamo che non ci sono solo le colleghe giornaliste, ci sono le assistenti ai programmi, ci sono le ragazze al centralino, siamo tante. La famosa tante. Barriera rosa. Esattamente, siamo tante al microfono e dietro le quinte. Qui abbiamo già realizzato uno degli obiettivi di questa giornata indetta dall'UNESCO, che oltre a ribadire l'importanza della radio come mass media, vuole promuovere le pari opportunità. E allora vi invitiamo a sostenerci, fatelo con un tweet, lo chiediamo naturalmente alle amiche di Cuore Denari che stanno aumentando sempre di più, ma anche agli amici che da questa giornata non devono sentirsi però esclusi. E allora aspettiamo i vostri tweet con l'hashtag Donne di Radio, leggeremo naturalmente i più simpatici e li conserveremo comunque tutti, perché oggi è la giornata delle donne che parlano alla radio, ma anche delle donne che ascoltano e intervengono all'800 24 00 24. E dunque in questa puntata che abbiamo intitolato proprio Donne di Radio, come l'hashtag che vi invitiamo ad utilizzare, non potevamo fare a meno di sostenere le donne di cuore e le donne di denari con consigli per il cuore e per i denari. Essere e benessere. Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. Salutiamo la dottoressa Lidia Rotavendere, che è qui in studio con noi, presidente di ALT, l'associazione lotta alla trombosi. Buongiorno. Buongiorno a voi, bello essere una delle vostre donne. Lei oggi ci darà i consigli per la nostra salute, ma ci aiuterà soprattutto a individuare le trappole in cui cadiamo con troppa leggerezza, per mancanza di tempo, voglia, informazione e per quella trascuratezza che è tipica nostra, che siamo più portate a pensare alla salute di chi ci sta accanto che non alla nostra, forse perché pensiamo di essere invincibili. Dottoressa, ci rivolgiamo a tutte le donne, ma in modo particolare oggi a chi? Intanto cominciamo a dire che tutta questa storia delle quote rosa, questo è un pensiero che mi è venuto di recente, non mi piace quote rosa, non mi piace quando dicono che bisogna per forza dare dello spazio alle donne, quindi cominciamo a cambiare il nome, diciamo che invece di quote rosa ci vogliono un po' di cervelli rosa, forse i cervelli rosa sono qualcosa di diverso e anche una definizione più carina. I cervelli rosa non devono essere preponderanti, non devono nemmeno essere in conflitto con i cosiddetti i cervelli azzurri, ma certamente le donne sono molto importanti e in questo momento, anche in questa trasmissione che parla di cuore e denari, forse l'argomento più importante è l'investimento. Siamo abituati a pensare alla nostra salute come qualche cosa che in fondo, se siamo così fortunati di averla, ci è dovuto, ce l'abbiamo e tante volte ci dimentichiamo come salvaguardarla. In mezzo alle mille ragioni per cui dobbiamo occuparci di noi quando stiamo bene, se siamo così fortunati di stare bene, adesso ce n'è una molto forte ed è che non possiamo più permetterci tanto di ammalarci, non ci sono risorse per tutti, i servizi sanitari nazionali sono in crisi, le persone diventano sempre più anziane, avranno sempre più bisogno di cure e questo ha un impatto enorme, certo. Ha un impatto enorme anche sul PIL, con un impatto di mezzo punto per ogni 10% di aumento delle malattie cardiovascolari. Allora, quando parliamo di malattie cardiovascolari, per fortuna parliamo di qualche cosa che nella stragrande maggioranza dei casi potrebbe essere prevenibile. Parliamo di ictus, parliamo di trombosi, parliamo di infarto, parliamo di trombosi delle arterie, delle vene, ma la cosa speciale di questo genere di malattie è che potrebbero essere evitate in un caso su tre. E l'investimento che dobbiamo fare è nell'informarci e nel sapere quali sono le possibilità di prevenzione per evitarle, che non vuol dire fare necessariamente degli esami che sono costosi, che non vuol dire delegare agli esami del sangue o strumentali la diagnosi di qualche cosa che c'è, vuol dire passare prima davanti allo specchio, darsi un'occhiata, guardare la propria famiglia, capire da dove veniamo, quali sono i cespiti dai quali arriviamo e dire quanto devo investire del mio tempo e della mia attenzione per poter salvaguardare questo patrimonio, perché stiamo parlando di un patrimonio di cervello, di cuore e anche di organi meno nobili, se così si può dire, come le gambe, come le braccia e come tutto il resto che è parte di noi. Quindi guardiamoci allo specchio, ma pensiamo anche il tipo di vita che stiamo conducendo. 800 24 00 24, in particolare amiche di Cuore Denari, intervenite se chiamiamo la raccolta, fumate. Sì, vogliamo avere solo le colpevoli? No, ecco, intervenite se avete qualche dubbio sul fatto che possa farvi bene o male, per esempio, il fumo, il sovrappeso. Spero che non ci sia più nessuno che ha un dubbio sul fatto che queste non siano cose positive. Però è importante che la gente abbia la possibilità di far domande se prendete degli ormoni, se siete in gravidanza, oppure se avete, non so se possiamo dirlo questo, se avete un compagno per il quale siete preoccupate. Intanto parliamo di donne, ma insomma attaccate alle donne ci sono molto spesso dei compagni. Infatti, ma per quei quegli uomini che non hanno una compagna che vuole intervenire a Cuore Denari, gli uomini non vogliamo lasciarli fuori dalla porta e come abbiamo cercato un po' di sensibilizzare le donne all'ascolto, di investire sulla loro salute, soprattutto quando è ancora prima, quando abbiamo il benessere, come possiamo invitare gli ascoltatori, uomini di Cuore Denari, a intervenire oggi in questa giornata mondiale della radio dedicata alle donne, dove le donne vogliono occuparsi anche di loro? Mettiamola così, partiamo da un mito in cui solo le donne hanno un problema che si chiama menopausa. E diciamo che anche gli uomini hanno l'andropausa. Diciamo che i sintomi che gli uomini possono avere, che li possono allertare, sono diversi da quelli delle donne. Uh-huh. La dimensione degli organi nobili degli uomini rispetto a quella delle donne è diversa. Le donne hanno un cervello leggermente più piccolo, hanno un cuore leggermente più piccolo. Ci sono dei sintomi per i quali gli uomini si spaventano facilmente, ci sono dei sintomi che invece le donne sottovalutano. A volte sono gli stessi sintomi, ma prendono un peso diverso. Quindi un cuore che frulla in gola, la sensazione di avere la bocca dello stomaco chiusa, la sensazione di o vedersi pallidi o sentire che si è stanchi o stanche, non avere fare due rampe di scale e accorgersi che improvvisamente si, come si dice a Milano, si sbanfa, quindi si ha il fiato corto. Non l'avevo mai sentita. Come si dice nelle Marche? Che ti viene il fiatone. Adesso ecco. No, se c'è proprio un termine che ma racchiude tutto il concetto, adesso ci rifletto. Ci aiuteranno i marchigiani all'ascolto. Esatto. Non è sbanfa, però. Però sbanfa è carino, dà una sensazione sbanfa. Oppure del cuore che batte in un modo strano, per esempio, imparare a sentire il proprio polso, imparare a sentire il cuore nel polso. Ci sono mal di testa, dei mal di testa che non avevamo e che cominciano, una sensazione di stomaco che si riempie troppo in fretta. Non è sempre solo colpa dello stress, anche se con la dottoressa Rottavender ci occuperemo anche di stress che ci avvelena la vita ma anche la salute. Quindi 800 24 00 24. Leggo intanto il messaggio di Ulisse che ci scrive: per Cuore e Denari, la radio 24 è un'amabile donna che ti sa ascoltare. Tanto per cominciare, Ulisse già si merita tutti i premi del Ulisse mondo. Ulisse c'è già conquistato il re di questa trasmissione, visto che noi siamo le regine. 800 24 00 24, continuiamo a ribadire il nostro numero verde. Scriveteci e chiamateci per raccontarci quale donna sostenete, qual è la donna che siete o quella che avete come modello, la donna a cui vivete accanto, e quindi è il messaggio rivolto agli uomini. Descriveteci anche la relazione che avete con lei o con voi stesse, se volete autosostenervi. Molte di noi hanno come modello la mamma, una donna, una collega, anche a volte il proprio capo. Insomma, vi viene in mente una donna di cuore o una donna di denari? Io partecipo subito e vinco, perché cosa sostengo? Vinci? Una donna, collega, amica, che mi aiuta anche a far fruttare i miei soldi. Non dare questa idea in giro, perché sì, sì. Non un po', o perlomeno a vincere quella ritrosia che molte donne come me hanno nei confronti della gestione delle questioni economiche. Quindi io gioco semplice, facile. Un po' di pregiudizio c'è nei confronti di questo argomento, ma io ti dirò che ricambio, perché tu invece mi stai aiutando a rimettermi in forma. Ma a parte questo, non neghiamolo, lo sappiamo che la relazione delle donne con il denaro è vista da molti come una relazione un po' pericolosa o comunque difficile. Come la dottoressa Rottavender ci aiuterà a non cadere nelle trappole e a mantenere il benessere del nostro cuore e del nostro cervello, per i denari noi stamattina abbiamo invitato a darci qualche indicazione la senatrice Maria Ida Germontani, una delle più attive sostenitrici, anche con iniziative concrete, della necessità di diffondere quanto più possibile l'educazione finanziaria fra i cittadini. Intanto, senatrice, buongiorno e benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno, buongiorno. Allora, quale messaggio alle nostre cittadine all'ascolto? Quali sono intanto i luoghi comuni più diffusi quando parliamo di relazione fra donne e denaro? Ma ci sono molti luoghi comuni che io credo si debbano anche sfatare. Per esempio, il luogo comune è quello che le donne, del rapporto delle donne con lo shopping, per esempio quello che magari si dice si indebitano più facilmente. Insomma, questi sono i luoghi comuni. Io credo che si debbano ormai, sono forse appartenenti a qualche anno fa, a un ruolo diverso della donna, che era più vista nell'ambito della famiglia, di una donna che non lavorava, che quindi aveva una dipendenza economica. Insomma, c'era tutta una condizione di vita e sociale diversa, mentre ora io credo che siano diverse le domande che ci dobbiamo fare, anche proprio guardando a un tipo di donna che ormai è molto cambiata. Allora, cosa si diceva quando è avvenuto il fallimento della Lehman Brothers? Ci si è chiesti se al posto della banca del Lehman Brothers ci fosse, che è fallita clamorosamente, ci fossero state le Lehman Sisters, le sorelle, che come sarebbero andate le cose? Sarebbero andate in un modo diverso? Oppure l'altra cosa carina che l'altro giorno, su cui si rifletteva l'altro giorno, se Pinocchio fosse stata una femmina avrebbe dato retta al gatto e alla volpe e avrebbe sotterrato mandandoli in fumo i suoi zecchini d'oro. Queste sono due, diciamo, sollecitazioni carine per dire che, al di là delle battute, credo che uno degli argomenti, mi fa molto piacere che oggi voi lo tocchiate in questa trasmissione, uno degli argomenti di grande attualità, è quello proprio del genere nella finanza e nell'economia. Questo per non tanto per stabilire una differenza tra uomini e donne. Sì, una differenza c'è, ma una differenza che riguarda per esempio le scelte. Si parlava di investimenti riguardanti la salute, ma qui dobbiamo parlare invece in questo caso di un diverso modo di investire il denaro, un diverso modo di gestire il rapporto con il mondo finanziario, dove che è ancora diciamo prevalentemente maschile, cioè il rapporto col mondo finanziario è ancora prevalentemente degli uomini, la metà per le donne, ma che stanno molto avanzando. Senatrice però... Germontani, direi che sono già delle sollecitazioni sufficienti per poter coinvolgere i nostri ascoltatori. Noi raccogliamo messaggi e telefonate e poi nella seconda parte del programma torneremo a coinvolgere anche lei per commentare insieme il pensiero dei nostri ascoltatori su questi argomenti. D'accordo? Benissimo. Ci sentiamo fra circa mezz'ora. Allora intanto grazie e salutiamo anche Mauro da Udine, che l'hai visto, scrive. Buongiorno donnissime. Non l'ho letto perché ha troppe S. Esatto. Buongiorno donnissime, che se ne dica, la mia suocera Sara è la miglior donna che esiste e a voi vi amo, ma il commento sulla suocera credo che sia inedito da parte di un uomo. Chiusa parentesi, Nicoletta. E iniziano le chiamate delle nostre ascoltatrici e anche dei nostri ascoltatori all'800240024 e vorrei salutare subito Lucia che ci chiama da Udine. Buongiorno Lucia, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, anche oggi è una giornata dedicata a lei, giornata mondiale della radio, dedicata alle donne che alla radio parlano, ma anche che alle donne che alla radio parlano perché intervengono. Certo. Quindi Lucia oggi è festeggiata con noi. Io volevo chiedere, nella vita frenetica di oggi, dove anche la donna è sempre di corsa, come si può prevenire senza spendere dei soldi che non ci sono e col tempo che sempre è poco e si corre in tutto per il lavoro, per mangiare, come si può fare prevenzione e fare una vita sana con questo tipo di condizioni al contorno, far vivere in modo sano anche i figli, il marito che magari a tavola non vede l'ora di sedersi per mangiare qualcosa di gustoso e di solito non sano. C'era un amico mio che diceva che era importante scegliere quale battaglia si vuole combattere, perché se ne cerchi di combatterne tre o quattro tutte insieme è difficile che tu ne vinca neanche almeno una. Credo che la cosa più... non possiamo fare a meno dello stress, non possiamo fare a meno del sovraccarico, non possiamo cancellare i problemi, non li possiamo sottovalutare. Quello che possiamo fare è razionalizzarli, quindi metterli in fila e stabilire qual è la cosa in assoluto la più urgente che dobbiamo fare, la più importante, e quella che dobbiamo per forza fare solo noi e che non può fare nessun altro meglio di noi. Il resto viene un po' con l'esempio e un po' ricordandosi ogni tanto di respirare. Questa è una cosa che viviamo tutti e la viviamo tutti i giorni. Se ci lasciamo sopraffare dal fiato corto, dal correre come disperate destra e sinistra, ci sono fior di studi pubblicati nei quali si evidenzia che per esempio la capacità di concentrazione quando dobbiamo fare un lavoro intellettuale non va oltre i 15 minuti. Quei 15 minuti primi sono i primi, sono quelli che rendono di più. Ci sono altri studi che dimostrano che non c'è nessun bisogno di lavorare 18 ore al giorno, perché di quelle 18 ore quelle che rendono veramente sono probabilmente 5 o forse 6. Quindi forse senza fare come gli americani che hanno dei magnifici, straordinari instant book che escono su qualunque tipo di argomento, come fai a diventare un leader, come fai ad essere un buon papà, una buona mamma, ma con un po' di raziocinio mettere ordine nelle cose che bisogna fare e nelle battaglie che si vogliono combattere. Per esempio sulla tavola il fatto di continuare a sollecitare il marito facendolo sentire colpevole perché sta mangiando troppo e male può essere forse un pochino scavalcato se cerchiamo con lui di mangiare un pochino meglio lentamente, magari ci ricordiamo di far due chiacchiere mentre mangiamo, altrimenti ci si siede a tavola, ci si affoga di cibo, lo stomaco si riempie, diventa grande, diventa una bisaccia, ha bisogno di più cibo per sentirsi sazio e questo porta a un desiderio irrefrenabile di mangiare ancora. Il sapore del cibo si sente in bocca e non nello stomaco, per esempio può essere un piccolo adagio che potrebbe essere usato. E ricordiamo alla nostra amica Lucia, Deborah, sì, che sulle pagine di Cuore Denari potete anche andare a ripescare tutte le ricette che sono ricche di gusto ma pensate e calibrate per fornirci tutto quello quello di cui abbiamo bisogno senza farci rinunciare al gusto, ma aggiungendo salute, le ricette che abbiamo preparato con l'aiuto di Stefano Polato per Mangia con me. E quindi c'è anche una descrizione di come si può fare la spesa e di che cosa portare a tavola, perché mangiare bene non vuol dire mangiare male senza sapore. 800 24 00 24. Leggevo intanto sui temi, immagino legati al rapporto donna, denaro, finanza. Giusi ci scrive a 349 238 6666: perché molte donne, a differenza dell'uomo, che rivestono posizioni di potere, sono sempre estremamente arroganti e maleducati. Sono certa che queste donne poi nell'ambito familiare, all'interno delle mura domestiche, si trasformino. Il problema è forse difendere queste posizioni che hanno conquistato probabilmente con tanta fatica. Giusi, detto questo, sicuramente non sono atteggiamenti giustificati. Poi magari, se ho tempo, racconto un episodio con un mio capo. Lo facciamo. Dai, lo faccio? Sì. Posso anche salutare Sebastiano Barisoni, che tanti anni fa mi diceva che io avevo la sindrome di Stoccolma in onda, perché mi lasciavo un po' troppo conquistare dai miei ospiti, ero un po' troppo accondiscendente, non ero sufficientemente cattiva con loro, e mi diceva: sbatti un po' di più queste ciglia. Non lo so che cosa ne pensino le donne che battagliano sulle quote rosa, però a me in realtà faceva tanto divertire. Poi mi sono un po' più agguerrita. Cuore e denari. E riprendiamo a parlare di donne, di donne di radio, donne che parlano alla radio perché conducono un programma, oppure perché intervengono per parlare di che cosa? Di cuore, di denari. Certo. E inizierei proprio a parlare di un fattore di rischio per il nostro cuore, inteso come la salute, che viene amplificato da una dimensione della nostra vita legata ai denari. Sono 9 milioni gli italiani che soffrono infatti di stress da lavoro. Sarebbe meglio però parlare di italiane, visto che di queste 7 su 10 sono donne. Ed è il risultato anche di uno studio condotto da ONDA, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna. Le più colpite sono le donne giovani, che devono farsi carico del doppio impegno della famiglia e della carriera, e che devono fare i conti con una organizzazione del lavoro ancora troppo poco flessibile. Dottoressa Rotavender, quindi, da donna di denari le chiedo: questo stress quanto incide sulla salute del cuore e del cervello delle donne? Beh, incide moltissimo, però ormai dovremmo tutti quanti sapere che lo stress è dannoso solo quando è uno stress prolungato. Lo stress, come parola, vuol dire stirare, ma lo stress è quello anche dell'alzarsi la mattina, tant'è vero che se una donna si misura la pressione nel momento in cui si alza la mattina, la trova 10 minuti dopo essersi alzata, la trova alta, e la pressione del sangue è quella che le permette di cominciare a ragionare, di cominciare a muoversi e di vascolarizzare, di perfondere di sangue, quindi di ossigeno, tutti i suoi organi. Anche agli uomini dovrebbe succedere la stessa cosa. Sì, certamente. Sì, non so quanto tempo ci mettono, se ci un mettono di più. Sì. però ci arrivano. Siete tremendine. Delle iene. Quindi sicuramente lo stress provoca delle alterazioni, soprattutto quando è prolungato. Allora, ci sono degli effetti immediati, per esempio l'accelerazione del battito del cuore. Il cuore può accelerare fino ad un certo punto, il suo battito regolare dovrebbe essere intorno a 60 pulsazioni al minuto, poi c'è chi ne ha 50, anche meno, perché è sportivo, allenato, e c'è chi ne ha un po' di più. Quando però il cuore viene sottoposto allo sforzo legato allo stress, il cuore accelera. Il problema è che, come tutte le pompe, fino ad una certa punto è efficace, è efficiente, e oltre una certa velocità non è più così efficiente nel far arrivare il sangue dove deve. Quindi se per esempio quando abbiamo la febbre, per ogni grado di febbre il cuore aumenta di circa 10 battiti al minuto, e aumenta anche il metabolismo. Quando abbiamo la febbre ci alziamo e siamo un pochino più magri di solito. Quindi se la febbre è durata febbre quando c'è bisogno, mai. Ma perché per ogni grado di febbre il metabolismo moltiplica per 10, quindi consumiamo 10 volte di più di quello che dovremmo. Quindi quello che conta è un pochino conoscerci, e questo forse anche la scuola potrebbe insegnarci qualcosa di più sul nostro corpo, senza farci diventare ipocondriaci, ma insegnandoci a rilevare quali sono i sintomi. Un cuore che batte in un modo irregolare, per esempio, lo possiamo sentire tastandoci il polso. Se il battito è irregolare c'è qualche cosa che non va. Le extrasistoli, tutti diciamo la parola extrasistoli, tutti diciamo la parola fibrillazione, fibrilla il governo, fibrilla l'Europa, fibrilla la borsa, poi di fatto chi sa che veramente la fibrillazione atriale è un disturbo del ritmo del cuore molto importante, che se viene riconosciuto in tempo può irriconoscerlo, può evitare un ictus cerebrale che può essere devastante. Ecco, questo è importante. Certo. Quindi i segni, i segnali dobbiamo imparare a conoscerli un po' leggendo, un po' studiando, un po' ascoltando anche la radio come oggi e poi facendoli nostri. Posso fare un'osservazione perché ha pronunciato la parola scuola e poi risentiremo la senatrice Germontani che ha proposto tanti disegni di legge proprio per portare l'educazione finanziaria nella scuola e adesso si sono fatte molte iniziative e magari poi le andiamo anche a riepilogare. Il tema dell'educazione forse alla salute è un altro passo avanti che il nostro sistema scolastico nella base quantomeno potrebbe le fare. Le scuole anglosassoni hanno un'ora che si chiama health, si chiama salute, è un'ora di lezione alla settimana nella quale si affrontano tutti i temi relativi alla salute, le ossa, l'AIDS, le malattie sessualmente trasmesse, la trombosi, il cuore, tutto quanto, tutto in un'ora che si chiama salute e secondo me non chiamandosi malattia ma chiamandosi salute è un approccio già molto intelligente. Sai quante battaglie potremmo far partire da questo microfono, cara Nicoletta? Ma devo dire che di battaglie, di iniziative ne abbiamo già fatte partire e continueremo a farle. Proprio anche oggi partirà una nuova iniziativa. Comunque abbiamo Enza che ci chiama da Vigevano perché le amiche di Cuore e Denaro le abbiamo invitate e vogliamo farle parlare. Certamente. Enza, vada. Buongiorno. Buongiorno. Complimentissimi per la trasmissione, vitale per me. Ha detto una cosa. Bene. Andiamo. Sono veramente soddisfatta, insomma, del servizio che offrite. Senta, io ho un problemino. Allora, ho compiuto 50 anni da poco e da quest'estate praticamente si è affacciata la menopausa. E a parte i disturbi classici, le caldane, un po' di nervosismo in più forse, sono un po' più preoccupata per, diciamo, effetti magari non eccessivamente visibili, ma che alla lunga sicuramente si presenteranno. Cioè l'osteoporosi, siccome ho una familiarità con l'osteoporosi, le mie zie, mia madre, tutte quante ne soffrono, io sto cercando, diciamo, nel mio piccolo di combatterla con quello che può essere l'attività fisica e mangiando in un modo regolare, però mi chiedo se posso fare qualcosa di più, nel senso che avevo pensato anche alla terapia ormonale sostitutiva, però francamente sono molto combattuta perché non ho ben capito se ci sono più vantaggi o svantaggi a intraprendere questo percorso. Se potete un po' illuminarmi in materia, ecco. Allora, Enza, lei invita a nozze la dottoressa Rotavendere e devo dire che sta sorridendo al sorriso che gira due volte dietro alle orecchie. Neanche avessimo organizzato scientificamente questa telefonata. Però Enza ci ha preso due volte. Una prima non si dice. Ha detto una parola. Ha detto una parola che poi... Che una parola è troppo e due sono poche, come diceva nonno. Lillo Baffi, esatto. E l'altra volevamo proprio sottolineare, dare alle amiche di Cuore e Denari una notizia che sta portando in giro in questi giorni alt e fresca e che riguarda proprio la terapia ormonale sostitutiva. Le donne, gli ormoni piacciono perché ci presentano anche la menopausa come qualcosa che ci trasforma, come la carrozza di Cenerentola, no? Arriva la menopausa, pum, di nuovo scoppia, diventa una zucca. Allora diventiamo con la pelle che cade, le ossa che si sgretolano, non ci piace orribili. Più fare l'amore, abbiamo un umore cattivissimo, allora uno dice datemi qualcosa, dottoressa Rotavender, che cosa e che prezzo siamo disposti a pagare per questo qualcosa? E poi ce lo possiamo permettere? La cosa più importante è questa: la menopausa è il momento in cui la donna smette di produrre le sue uova, gli ovociti, che possono essere fecondati, quindi è la fine dell'età fertile, ma non è la fine della vita. Nella menopausa il cambio nell'assetto degli ormoni, nell'equilibrio degli ormoni è molto importante. In alcune donne è molto importante, molto significativo perché si manifesta con dei disturbi, in altre non si manifesta affatto. I sintomi della signora sono, lei sembra proprio un manuale, per quello mi veniva il sorriso col fiocco, perché ha detto che ha le scalmane, che è più irritabile, che dorme meno bene, ha il sonno disturbato. Non l'ha detto, ma Un altro sintomo importante della menopausa è la secchezza vaginale, per esempio, che può avere un impatto molto forte nei rapporti sessuali, che è un peccato perché è proprio il momento in cui finalmente una donna non corre più il rischio di rimanere incinta se non lo desidera, e quindi dovrebbe essere il momento sessualmente più sereno. Di fatto gli studi hanno dimostrato che non è per niente vero che la donna in menopausa perde l'appetito sessuale. Si vede un pochino invecchiare, questo forse le toglie un pochino di sicurezza. Le terapie ormonali sostitutive della menopausa sono state inventate, sono state somministrate e prescritte a moltissime donne. A un certo punto in Svezia c'era il 55% delle donne in menopausa che le assumeva. Perché? Perché si pensava in questo modo di contrastare gli effetti molto sgradevoli della menopausa nelle donne che li avevano in forma molto pesante. Poi hanno cominciato a osservare gli scienziati e hanno pensato: se questi ormoni allungano la vita fertile della donna, soprattutto le mantengono un equilibrio ormonale che lei aveva prima dei 50 anni, mettiamo 50 come se fosse la data della menopausa, ma questa donna, le donne che prima avevano minor rischio di avere un infarto e un ictus, come mai dopo la menopausa piano piano si avvicinano alla quantità di ictus e di infarti che hanno i maschi? Vuoi vedere che gli ormoni che la donna aveva prima, durante l'età fertile, la proteggevano, e che se noi glieli diamo quando entra in menopausa la proteggiamo? Questo sembrava vero nei primissimi anni, poi si è dimostrato che invece non è per niente vero. Quindi non è vero che gli ormoni, la terapia sostitutiva che si dà in menopausa previene gli eventi cardiovascolari, anzi è stato dimostrato che oltre i 5 anni di assunzione dall'inizio, nel momento in cui si prendono gli ormoni, il rischio aumenta moltissimo, e aumenta soprattutto per quelle donne che hanno in casa, nella famiglia, negli ascendenti o nei collaterali consanguini, eventi da trombosi, quindi infarti, ictus, embolie, trombosi venosa, trombosi arteriosa. Oggi sappiamo che la terapia sostitutiva non è vero che salva la pelle, non è vero che salva la giovinezza. La terapia sostitutiva è una terapia ormonale, è importante, è un farmaco vero e proprio, deve essere dato solo ed esclusivamente quando i sintomi della menopausa sono molto importanti per combatterli, tenendo presente che una volta che si sospende la terapia sostitutiva i sintomi torneranno. Quindi questo va a considerare. L'ultima cosa voglio dire, l'osteoporosi. Si è osservato che forse le donne che prendono la terapia sostitutiva per la menopausa hanno una decelerazione dell'osteoporosi. Come dire, se il mio programma di andare incontro all'osteoporosi, all'invecchiamento naturale delle mie ossa, è fissato in 30 anni, invece prendendo la terapia ormonale sostitutiva io allungo il tempo e sposto in là negli anni il momento in cui mi arriverà l'osteoporosi. Bisogna tenere presente che l'osteoporosi, e la signora l'ha già detto lei, per questo dico che è brava, perché lei ha detto: oltre a fare l'attività fisica, e l'attività fisica è il modo migliore per prevenire l'osteoporosi, cominciata il più presto possibile, ma non è mai troppo tardi, si può cominciare sempre, fatta in un modo blando, perché non c'è bisogno di iscriversi necessariamente a una palestra se non si può, basta camminare a passo veloce, mettendosi in tenuta da battaglia, come dico io, quindi con una tuta nella quale si possa anche sudare un pochino, andando con un passo come se si andasse a un appuntamento e si fosse in ritardo, e per 40 minuti di seguito, possibilmente. Appuntamento galante. Tutti i giorni. Questo mi piace. Ecco, l'appuntamento galante con la tuta. Io avrei un suggerimento. Perché uno su, può anche andare a correre al parco, sì, con un fidanzato. Tuta, sì, non so. Vabbè. Adesso sono tanto carine, voglio dire. Cioè, qua, mettiamo in campo tutte le nostre doti. Se ne di vedono fare uno shopping tante, adeguato. Devo dire. Esatto. Si vedono tantissime. Se voi vi date un'occhiata in giro nei parchi, nonostante abbiamo un'aria inquinatissima, nonostante abbiamo il traffico, anche in questa città di Milano ci sono moltissime persone di tutte le età che vanno a camminare veloce o a correre nei parchi o in bicicletta. Lei ha parlato di aria inquinata, io sono stata proprio al Tavola Rotonda organizzata da ALT, l'associazione lotta alla trombosi, che anticipa la giornata del 16 di aprile, e avete proprio sottolineato il rischio dell'inquinamento per la nostra salute, non solo per i nostri polmoni ma anche per il nostro cuore e per il nostro cervello. L'inquinamento produce un 24% in più di infarti e un bel 35% in più di ictus. Quindi sono dei dati, sono che proprio le polveri sottili, fra l'altro. Stamattina ne parlavo proprio con un paziente che mi diceva: già, certo che adesso l'aria è molto migliorata, perché una volta si sporcava tutto di marrone. Ho detto: no, l'aria non è migliorata, l'aria è peggiorata a livello microscopico, è migliorata perché è meno carbonosa. È meno... Quindi quando i nostri ascoltatori, Deborah, ci scrivono, ci faranno pagare anche l'aria che respiriamo, la stiamo già pagando, la paghiamo in mesi o in alcune zone anche in anni di vita. Cuore e denari. Eccoci ritrovate in diretta con Cuore e Denari. Allora, stiamo esaminando un pochino questa mattina quelle che avevamo ribattezzato ieri, Nicoletta, mentre preparavamo la nostra trasmissione, le relazioni pericolose, no? E adesso andiamo ad affrontare quella che è effettivamente un po' problematica, perché in realtà quando parliamo del nostro rapporto con i soldi abbiamo, come dire, un atteggiamento sempre pregiudiziale, e poi invece maneggiare i soldi, la finanza, la gestione del nostro risparmio, il benessere della famiglia anche dal punto di vista economico non è affatto una materia che scotta. Salva Danaio. Kerry, io ti voglio bene, ma non è assolutamente compito mio risanare le tue finanze. Sei una donna di 35 anni ormai, devi imparare a stare in piedi da sola. Charlotte, scusa, che cosa hai al dito? Niente, lo metto quando sono qui in casa. E vieni a dire a me di essere indipendente? È il mio anello. Hai ragione. L'anello è tuo e sono affari tuoi. Ho fatto tutto da sola mentre camminavo per venire qui. Sei venuta a piedi? No, ho preso un taxi a $5 per fare 7 isolati. Queste scarpe mi fanno male ai piedi, però mi piacciono. Eh sì, diciamo che Carrie Bradshaw sempre presta molto bene a sintetizzare i temi che affrontiamo nel nostro programma. Qua abbiamo parlato della sua relazione con i soldi. Lei dice sempre che i suoi soldi li vuole vedere ben chiari, appesi nel suo armadio, quindi i suoi vestiti, tutti i griffatini. Detto questo, forse la figura di Carrie Bradshaw non è quella alla quale siamo più vicine, ma andiamo a vedere qual è invece la donna italiana, almeno nel racconto che ci fanno le nostre ascoltatrici, appunto nella loro relazione con il denaro. E commentiamo anche questi argomenti con di nuovo un ritorno che abbiamo preannunciato prima, la senatrice Maria Ida Germontani, che torno ancora a salutare. Buongiorno, eccoci a lei. Eccoci qua di nuovo, buongiorno. Nicoletta, quando senatrice, deve... se Pinocchio fosse stata femmina non si sarebbe fatto fregare, secondo niente me. Di ci ho pensato e sì. Se Pinocchio fosse stata una Pinocchia gliel'avrebbe fatto... No. Fatta vedere al gatto e la volpe, come li avrebbe ammaliati. Senta, senatrice Germontani, noi abbiamo raccontato prima, ho preannunciato, del suo impegno in questi anni per portare battaglie anche dure in Parlamento, dei disegni di legge, delle proposte di legge per migliorare l'alfabetizzazione finanziaria dei cittadini italiani, che detta così sembra anche un termine brutto, perché come se avessimo di fronte a noi, no, una popolazione di ignorantoni dal punto di vista del denaro. In realtà, in che cosa è consistito questo suo impegno? Ce lo vuole riepilogare e magari anche che appoggio ha avuto da parte delle sue colleghe in Parlamento? Ma l'impegno è stato notevole e mi fa piacere vedere che adesso si ritorna a parlare di educazione finanziaria dopo un periodo in cui assolutamente è stata ignorata, forse perché poi il quadro politico è talmente complicato che sembra che parlare di educazione finanziaria si parli del sesso degli angeli. In realtà proprio di alfabetizzazione noi dobbiamo parlare, che riguarda non solo le donne ma riguarda tutti, uomini e donne. E se è vero che è importante appunto la conoscenza e per l'impegno nel campo economico, nel campo finanziario, perché soltanto con la conoscenza e quindi facendo scelte finanziarie adeguate, con questo si può contribuire veramente allo sviluppo economico del paese, noi ci rendiamo conto di come questo tema è centrale proprio quando parliamo di crisi economica e viviamo anni, momenti come quelli che stiamo vivendo. Quindi noi adesso diciamo che siamo arrivati ad un testo di legge condiviso che faremo in modo di portare avanti velocemente, però al di là di questo è importante che l'argomento rimanga, diciamo, sulla cresta dell'onda, per cui le iniziative che si stanno facendo, la Fondazione per l'Educazione Bancaria, Finanziaria e via dicendo, che si stanno facendo in tutti i rami, perché se ne stanno occupando fondazioni, banche, assicurazioni, questi sono fondamentali. Volevo segnalare, senatrice, mi permetta solo se la interrompo, prego, l'iniziativa Economia Amica, perché tra l'altro si chiama anche tutta femminile, mi viene anche da sorridere, che è un'iniziativa portata avanti dall'associazione appunto Patti Chiari e dall'associazione dei consumatori, quindi cercate se nella vostra città c'è un convegno, un'iniziativa di questo tipo, perché sono proprio luoghi di incontro in cui anche esponenti del mondo bancario locale, so che può sembrare assurdo, ma si mettono a disposizione per insegnare la finanza ai cittadini, anche se appunto in realtà magari possono essere visti con un po' di sospetto, e rappresentanti delle associazioni dei consumatori appunto territoriali fanno incontri per spiegare che cos'è un'azione, che cos'è un'obbligazione, come si apre un conto corrente, come si sottoscrive scrivo muto tutti i temi con cui perdo tempo con te, Nicoletta. È vero non che è io sono non po', è vero, un non po' è decoccio, non è vero, però non ragazze, è vero, piano non è vero, piano non sto è vero, imparando. Non è vero, non Anna è vero. Da Macerata, Anna buongiorno. Da Macerata ci piace. Anna, buongiorno. Buongiorno, Deborah. Ci dica. Dunque, io porto la mia testimonianza perché mi trovo in questa situazione. Pur laureata in lettere, non avevo assolutamente un'idea di quello che significa obbligazione. Adesso ce l'ho chiara, so che significa obbligazione. Beh, sa com'è, se lei mi chiedesse tutta la poesia di Ungaretti, io me la ricorderei. Per cui intanto va bene, ecco, però è giustificata un pochino. Introdurre l'educazione finanziaria nelle scuole sia importantissimo. Perché io mi sono trovata 15 anni fa, vedo, all'improvviso, a dover gestire, siamo tutti dipendenti statali, ad ogni modo... Io sapevo solo botte, i botte erano obbligazioni e mi dicevano che era una cosa sicura. Cioè le obbligazioni erano una cosa sicura e le azioni rischiose. Quando poi in banca mi propongono, io che avevo sempre sottoscritto botte con mio marito, le obbligazioni argentine, lei capisce, per fortuna avevo la Telecom e non lo Stato, per cui ho ripreso... Ah, aveva le obbligazioni, ho capito, sì. Ha capito però la difficoltà. Io certo. Da allora ho cominciato a sentire la radio 24. Brava, vede che ha avuto c'era una idea Marco brillante. Conte. C'era Marco. Seguivo sì. Tutte le vicende. Sì, sì. Sintetica. Quindi insomma, pure... si è messa d'impegno e insomma ha capito che non è niente di tanto impegnativo, no? Come dire, cercare di formarsi sui temi economici. Anna, molto rapidamente la dobbiamo salutare perché il tempo corre qua e dobbiamo dare spazio a tutti. Comunque, insomma, mettersi ha dovuto aspettare un fatto traumatico della sua vita. Magari, come dire, un consiglio che possiamo dare: cominciate anche un po' prima, solamente nella fase in cui diventate indipendenti come donne. No? Questo vale anche per la nostra salute. Non aspettiamo che ci capiti qualche cosa per dire adesso mi metto in regola, no? Dobbiamo cercare non un po' solo di... non dobbiamo aspettare, ma non dobbiamo neanche accontentarci di fare un esame e di vedere che tutto sommato quell'esame va bene. Anche nei programmi di prevenzione noi siamo abituati ormai, ci sono la prevenzione del tumore della mammella, la prevenzione del tumore del colon, e ci basta di aver fatto l'esame e di vedere che per quella volta è negativo, poi non ce ne occupiamo più fino a quando non è la prossima scadenza per rifare di nuovo l'esame. Ecco, non sono tanto e solo gli esami che ci dicono, dobbiamo non solo farli, dobbiamo leggerli, dobbiamo cercare di capirli, farceli spiegare se non li capiamo da soli e prendere dei provvedimenti. Abbiamo tempo di sentire Claudio o Luisa, che dici Deborah? Mi piace Luisa. Luisa. Claudio Lomino ci sarebbe servito, però vabbè. Ma che magari è un omone. Magari ce la facciamo tutti e due, via. Poi gli chiedo quanto è alto, perché è un omino? Lei le vede tutti piccoli. Che cosa devo Luisa, fare con questa spazza? Luisa, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per ospitare questa mia piccola riflessione in uno spazio tanto importante e tanto ricco di ogni genere di argomenti. Grazie Luisa. Vada. Come mamma, come donna e come moglie vorrei solo sottolineare l'importanza di questo ruolo di responsabilità genitoriale nell'allevare, nel crescere figli maschi e femmine con una condivisione di valori, pertanto stimolando la collaborazione e mai la competitività. La non quote rosa per legge, ma a partire dalla famiglia. Allora sentiamo i papà che cosa fanno. Mi scusi, vorrei sentire anche Claudio. Sì, ce la fa rapidissimo, telegrafico. Ah, telegrafico? Sì. Mi sentite? Sì, vada. Benissimo, niente, io volevo solo parlare di mia moglie che è una donna fantastica. Dopo 50 anni di matrimonio, che farò fra un mese e mezzo, io dovessi rinascere e risposerei ancora mia moglie. Carino, e Claudio, e quanto è alto lei? 1,76. Dai, ci stiamo, no? Ma è sposato, non va bene, ma non importa, però che è tanto alto. Felice intrufolarmi in questa coppia, Claudio, qua, bravo. Modello. Ci ha già conquistato, ma noi ci facciamo conquistare un po' troppo. Sì, esatto. Grazie a Claudio. Allora, ringraziamo le nostre ospiti. Senatrice Germontani, la richiameremo più avanti naturalmente per farci raccontare queste sue iniziative poi alla fine che sbocco hanno concreto nelle abitudini di tutti i giorni. A presto. Grazie, grazie molte. Grazie alla dottoressa Lidia Rottavender per essere stata con noi. Grazie a voi, è sempre un grandissimo piacere. Un abbraccio. E tra poco noi parleremo della nostra iniziativa. Diciamo che è un ospite che vale per il cuore, esatto, perché fa il medico. Certo, e vale per i denari perché insomma i suoi libri, si può dire, fruttano parecchio. Cuore e denari. Eccoci qua, siamo tornati. Oggi è proprio una giornata da ricordare. Mi piacerebbe che fosse così anche per voi. Nella giornata mondiale della radio dedicata alle donne, la coppia di Cuore Denari si trasforma in un triangolo. Il triangolo no, non l'avevo considerato. D'accordo, ci proverò. Questa non so se farla passare o meno, ma insomma il triangolo no, triangolo sì, dipende, diciamo che dipende dal triangolo, dipende. Sì, brava. Il nostro è pienamente legittimato perché è intellettuale, letterario, ma non dimentica il cuore e i denari. E in studio con noi, ta-ta-ta-tan, presentiamo Andrea Vitali, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E benvenuto, naturalmente. Grazie mille anche a tutti coloro che come me non si intendono di geometria e quindi di triangoli. Le facezie simili. Senti Andrea, tu sei qui con noi perché stiamo per inaugurare questa nuova iniziativa di Radio 24 rivolta agli ascoltatori e in particolare per chi ha la passione per la scrittura, e sappiamo che sono in molti. Allora, ormai ti abbiamo catturato, dobbiamo però essere davvero irresistibili per averti convinto a iniziare questa avventura con noi, partire da due mondi reali che sono quelli della salute e dei soldi per andare in mondi paralleli. Come abbiamo fatto? Niente, basta guardarsi intorno. Cioè, i mondi paralleli, per quanto possano sembrare di fantasia, sono mondi che esistono e che diventano reali se tu li guardi e li cogli. Dico l'unica cosa seria di oggi. Se pensiamo alle conquiste che le neuroscienze stanno facendo proprio in questi anni, in questi mesi, ci si rende conto che il mondo che noi vediamo probabilmente è solamente uno dei tanti mondi che ci stanno intorno. Quindi i mondi paralleli in quest'ottica sono pienamente giustificati. Allora, però, voi sognate, intanto, lo diciamo ai nostri ascoltatori. E se sognate di parlare con Andrea Vitali, potete già chiamarci. Bravissima. all'800 24 00 24, perché a Cuore Denari si realizzano anche i sogni. Esattamente, come quelli di parlare appunto con uno scrittore molto, molto apprezzato e molto amato dai nostri ascoltatori e non solo. Però io, come donna di denari, devo sempre fare questa cosa, un compito sempre sgraditissimo, devo riportarvi sulla terra e vi inquadro bene con le regole di questo nostro percorso che faremo con Andrea Vitali. Insomma, in soldoni. In soldoni, eccoli là. In realtà non daremo nessun soldo, però ogni settimana gli autori dei due racconti migliori riceveranno in regalo una smart box, che è comunque un bellissimo regalo. Per cui, che cosa succede? Che a partire da oggi, ogni giovedì, solo ascoltando la diretta di Cuore Denari, potrete sentire dalla voce di Andrea Vitali gli incipit di due racconti, uno per il cuore e uno per i denari. Poi avrete tempo fino alle 24 del martedì successivo per completare uno dei due incipit con 24 righe, che sono circa 2500 battute. Comunque trovate tutto il regolamento sul nostro sito. Attenzione, ed è proprio lì e solo lì che dovete inserire i vostri racconti, le vostre 24 righe. C'è una mascherina, scriveteli dentro. Non valgono mail, fax, letterine, esatto, non altri li guardiamo. Canali. Siete tanti, forse non abbiamo neanche tempo di farlo, per cui se siete ben inquadrati nella regola che vi abbiamo dato, ci facilitate molto il compito. Insomma, avete una mascherina, usatela. Ma non basta, dobbiamo dirvi ancora due paroline che è essenziale conoscere e che saranno diverse ogni giovedì. Sì, perché affinché i vostri racconti possano essere esaminati dalla nostra giuria, dovrete utilizzare nelle 24 righe del vostro racconto la parola che sentirete ogni giovedì in diretta. Oggi la parola dell'incipit della parte del cuore, dei racconti di cuore, che ascolteremo tra poco, è per l'appunto cuore. E a proposito, dato che oggi è la giornata dedicata alle donne della radio, abbiamo chiesto ad Andrea degli incipit nei mondi paralleli del cuore dei denari che hanno comunque come protagonista delle donne. Andrea, eccomi, vado con l'incipit? Sì, eccomi qua. Nel mondo parallelo dell'odontoiatria, una signora che non mette piede fuori di casa se prima non ha letto l'oroscopo, è un capricorno per la cronaca, si siede sulla poltrona del dentista. L'odontoiatra è giovane, bello, spiritoso. Nell'aria del suo studio aleggiano profumo di bosco e in sottofondo musica da camera. Così che quando comunica alla signora di aver reperito un piccolo ascesso, la paziente non si inquieta, anzi stupisce il dentista affermando che già lo sapeva. Il suo oroscopo l'aveva avvisata di evitare gli eccessi. Sorride il dentista, rispondendo che anche lui, Sagittario per la cronaca, non esce di casa se prima non ha letto l'oroscopo che lo riguarda, che afferma quel giorno gli ha consigliato di non aver paura di niente, nemmeno degli eccessi. Quindi saluta la signora dicendole di passare dalla segretaria per il conto, la quale... Continuate voi in 24 righe, quindi se questo incipit ha risvegliato la vostra vena creativa, fermatela subito nera su bianco, mettetevi a scrivere, trasformando quindi questo incipit in un racconto solo e soltanto inserendolo nell'apposita mascherina sul sito di Radio 24 e utilizzando almeno una volta la parola cuore. Adesso prendo io la palla al balzo e tocca all'incipit di denari. Andiamo, Andrea, nel mondo dei soldi, del lavoro, del risparmio. Che incipit abbiamo scelto? Nel mondo parallelo del denaro, una signora benestante prega insistentemente la sua coiffeuse affinché le faccia una grandissima cortesia. Non importa il prezzo, non bada a spese, pagherà qualunque cifra senza discutere. Anzi, che faccia la parrucchiera, dica lei quanto vuole per andare a casa sua a tagliare i capelli al marito che purtroppo non può uscire di casa a causa di una bronchite, ma di lì a 3 giorni deve prendere parte a un consiglio di amministrazione cui non può mancare. La parrucchiera accetta, non può fare altrimenti, la signora è una preziosa cliente, avanza una cifra più che onesta, chiede alla signora che taglio preferisce il marito. La signora sorride in maniera equivoca perché... Chissà che non risponda a un taglio da 100 euro, ma insomma, se questo incipit, anche in questo caso, come è successo per quello di cuore, ha risvegliato la vostra vena creativa, allora bloccatela immediatamente, nero su bianco, completate con 24 righe, quindi ricordiamo ancora l'equivalente sono circa 2500 battute, questo incipit, trasformatelo in un racconto solo e soltanto inserendolo dall'apposita mascherina sul sito di Radio 24. Nel vostro completamento dovete utilizzare almeno una volta la parola denari, fatemi fare bella figura. Non sì, è che facciamo una gara fare... io e te adesso, assolutamente no. Fateci fare bella figura, avete tempo fino alle ore 24 di martedì prossimo e giovedì ci sarà un altro appuntamento, due altri incipit, uno per la parte cuore, l'altro per la parte denari, insomma scrivete, ma intanto chiamate se volete, certo, ad esempio avere dei consigli d'autore. Esatto. 800 24 00 24. Vincere la paura del foglio bianco, Andrea, ci sono dei consigli perché anche a noi capita quando dobbiamo iniziare a scrivere la scaletta, ti vedi questo foglione bianco, sì, esatto, questo schermo, come esatto si dice. E c'è sempre l'inizio un po' complicato, no? L'attacco in tutto. Esistono anche delle carte colorate. Dobbiamo... Sì, no, però vabbè, ma la paura del foglio bianco non deve esistere. Se c'è paura bisogna prendere il foglio bianco, stracciarlo e darsi... a qualcosa di già scritto, quindi a leggere e aiuta a vincere, diciamo, questa paura. Ma soprattutto bisogna arrivare davanti al foglio bianco quando hai già qualcosa da scrivere. Ah, ecco, vedi. La scrittura è un compagno di vita, è una compagna di vita, per cui devi averla sempre con te. Il foglio bianco è l'atto finale, diciamo, di questo processo mentale, di questo processo anche affettivo, che ti porta poi a riempire di idiozie, come faccio io, il foglio dai, bianco. No. Dai, che, abbiamo, noi, che tu sei infatti, un idiota. No, no. Cosa? No, allora, non senti, posso, no, dacci non un altro allargarmi. Suggerimento operativo per tutti coloro che si cimenteranno e ci accompagneranno in questa avventura che dura fino alla prima settimana di maggio, se non mi ricordo male, per cui saremo insieme ancora per lungo tempo. Ma invece però non hai più tempo per tirarti indietro. No, vabbè. Ormai legato mani e piedi e non solo, ma a cuore volentieri. Denari. Per chi invece ha tanto da raccontare e, come dire, il dono della sintesi non è proprio quello per il quale brilla uno scrittore, cosa deve fare per arginare l'impeto creativo? Ma io lo lessi tantissimi anni fa e me lo tengo per detto da sempre. C'è una battuta di un vecchio parlamentare dell'Italia Unita, quindi molto diverso da quelli attuali, che disse testualmente: quando ho detto ciò che devo, ho anche smesso, ho anche finito di parlare. È vero. È una... Sì. È un aforisma che ti dice proprio che devi dire quello che devi con poche parole, quindi in questo caso magari aggettivi ridondanti sono inutili. Arrivare al cuore della faccenda, tenendo ben presente che hai un numero, hai una maschera predeterminata e devi stare all'interno di questa cosa, non puoi fare di più, quindi devi dire tutto quello che hai utilizzando il minor numero di parole possibili. Oggi è la giornata mondiale della radio e della donna che lavora in radio. Se fosse la protagonista di un tuo romanzo, ammesso che tu decidessi mai, di parlare di due donne Guarda, che lavorano alla radio io con cui hai avuto delle avventure. Che a no? maggio lui non potrà fare a meno perché? Di raccontare in un suo romanzo tutto quello che gli è successo in questi mesi. Vuoi vedere? Scusami, d'altra parte. Adesso la lanciamo anche come sfida. Una doppia avventura. Ma si può scrivere un romanzo su commissione così come stiamo facendo noi, Andrea? Guarda che la commissione è una cosa preziosissima. Io ho già scritto racconti e romanzi su commissione. Intendendo per la commissione ascoltare il consiglio o di qualcuno che ti dice una cosa, tenerlo in caldo, rifletterci sopra e capire che quella cosa valeva la pena di essere affrontata con la scrittura. Quindi la commissione, che passa per una cosa schifosa, mm-hmm. spesso e volentieri è invece un aiuto che ti viene da un'altra persona, perché cioè, tutti hanno qualcosa da dire, hanno qualcosa da offrirti, anche consigli. Anche i consigli di due sciamanate come noi. Esatto. No, non è vero. Non buttatevi giù così. Allora, ritorniamo a queste donne della radio. Che tipo di romanzo ti potrebbe ispirare una figura come questa, quella della donna radiofonica? Cioè, non è il caso di voi qui presenti, ma certo, la mia donna radiofonica sarebbe... Sennò siamo troppo in conflitto di interessi. Sì, no, ma sarebbe talmente brutta che non potrebbe apparire in TV e quindi la fanno lavorare in radio, vedi? Affinché nessuno bello. La veda. Hai presente quelle voci telefoniche così... Suadenti, charmanti, si dice, charmeuse, non lo so. Sì. Ecco, e poi dopo tu dici, questa la devo conoscere, questa ha una voce talmente sensuale, che deve essere una bellissima donna, poi ti trovi di fronte... una ciofega incredibile. Ecco, la mia donna in radio sarebbe così, una voce assolutamente affascinante, conturbante, anche un po' equivoca, e poi invece non so, una figurina diciamo discretamente abbondante di glutei, dalla gamba corta, dalla caviglia grossa, che è una delle cose che mi fa più orrore in una donna. E mi fermo qua. Mm-hmm. Mi fermo, cioè, dall'ombelico in giù. Nessuno va. Non vado. Hai capito. E pensa che a me immaginano piccolina e bionda. Uguale proprio, eh? Sì, devo dire, perché magari la bionda ha più, no? Non è più seducente, la bionda. Non so, è interessante questo discorso sul definire una figura a partire dalla voce, un po' lombrosiana come cosa. Però visto che Lombroso sta tornando in auge... infatti. Però capita anche a noi di sentire magari al telefono degli esperti che dici, ma questa è una voce, Deborah, sarà bellissimo. Poi magari lo incontri e rimani deluso. Insomma, la voce inganna. È un biglietto da visita molto importante, però sicuramente un po' illusorio, no? Come qualità anche della persona. Andiamo a dare qualche altro suggerimento operativo per fare questi completamenti dei nostri incipit. Andrea, che cosa ti piacerebbe leggere dalle mani, dalle penne dei nostri ascoltatori? A me piacerebbe leggere uno spreco di fantasia, soprattutto di fantasia surreale. Io questi incipiti li ho pensati proprio facendo leva, diciamo, sul fascino che il surreale ha su di me, e quindi mi piacerebbe che chi completa non stia troppo attaccato alla realtà, ma che si lasci proprio prendere dalla fantasia più estrema, che proprio dopo sconfina nel surreale e chiude in maniera surreale, diciamo, queste storie. Io un paio di chiusure qua le ho già immaginate, non posso dirlo, è certo. Però quindi qualche idea di come vorresti che qualche racconto si concludesse? E certo, soprattutto sul secondo. Chissà se c'è qualcuno che ci azzecca addirittura nell'emulare, sì, Andrea. Sì, perché ci si potrebbe spingere un po' verso il noir. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io non amo molto spargere sangue e visceri nei miei racconti, però sono un appassionato di noir, lo leggo volentieri, perché chi lo fa bene è bravo, insomma, e quindi mi affascina. E quindi il noir ci starebbe anche bene. E allora starebbe andiamo... bene anche un po' di sex alla fine. Volevo dirlo perché non guasta mai, perché non guasta mai, parte un po' di pepe, esatto. Infatti guarda che sono arrivati tantissimi messaggi, perché parlavamo di menopausa con la dottoressa Rottavender e molti uomini ci hanno scritto molti uomini in menopausa che le loro donne proprio perché vicina alla menopausa avevano un po' perso il piacere di fare l'amore, mentre alcuni sostengono invece l'urologo dice che proprio per mantenermi efficiente e sano devo comunque andare a fare l'amore più spesso. E alcuni suggerivano, infatti cercherò altrove. Dovevi scrivere 40 erotti libri per venire a sentire queste cose, no? Non ci avresti mai pensato. Però no. Con lui anche un dutour si può anche parlare di sesso. Esattamente. A te vengono in ambulatorio e parlano della loro virilità vita sessuale? Perché è un indicatore di salute. Io dico sempre questo, me l'avete insegnato voi. Lasciandomi talvolta esterrefatto per l'età. Vero? Perché adesso apriamo la porta dell'ambulatorio. L'ottantenne che vuole farsi misurare la pressione perché ha appena finito di praticare mi lascia completamente stupito, perché io faccio una fatica dell'accidente e lui invece ha 80 anni. Ma lui viene secondo te perché te lo vuole raccontare un po' perché anche ti vuole far crepare d'invidia. Guarda che bravo che sono, vado a raccontarlo al dottore che mi misura la pressione che ho appena fatto. E io invidioso gli dico che ha una pressione altissima, non lo deve fare mai più. No. Sì. No, e invece le signore sono più le prude. Signore sono infastidite, devo dire, la maggior parte delle volte sono infastidite dagli assalti dei mariti? Sì, non solo dai mariti, anche eventualmente anche da amici dei mariti. Ma dicono sempre sempre sta roba, che stufida, in dialetto, poi dopo dico che stufida, che sono stanco. Non... Con Andrea Vitali naturalmente in ambulatorio si parla di problemi di cuore, immagino non di quelli di denari, non esiste la frustrazione un po' anche dal problema economico, Andrea, o ti capita di dover gestire anche, come dire, un po' una confidenza su questo? No, beh, adesso che senza entrare nello specifico esiste anche un problema di denari, legato proprio, questa è seria, dico, al pagamento dei vari ticket, delle prestazioni diagnostiche, dei medicinali che non sono compresi nel prontuario, quindi che sono a totale carico dell'assistito. E devo dire che parecchie persone patiscono, diciamo, da un po' la situazione attuale, perché diciamo 50 euro sottratti al bilancio familiare per pagarsi. Ah, certo, se c'è una pensione da 1000 o anche sotto. Diventano pesanti. Certo. Diventano pesanti. E insomma, questo anche per dimostrare ai nostri ascoltatori il fatto che magari qualche artista, se possiamo un po' definirti così, questa mattina non è che vive sempre un po', no, sulle nuvole, no, Nicoletta, ma c'è sempre grande concretezza, soprattutto per una professione come questa. Vogliamo riepilogare le regole del nostro percorso, come sì, vogliamo chiamarlo? No? La nostra iniziativa che si chiama, che ha un nome, esattamente, Cuore Denari Vitali. E infatti questo Vitali diventa un cognome perfetto, perché Cuore Denari ci auguriamo che diventino vitali. Sono cose entrambe vitali, cioè se il cuore non va, ecco, non potevamo, infatti, come vedi che è proprio che meno male che sei nato, vedi, e che ti chiami Vitali, così possiamo fare questo magnifico triangolo, che è un triangolo che sicuramente darà grandi soddisfazioni anche ai nostri ascoltatori e possibilmente anche degli smartphone, sì, degli smart box, non i telefoni, ma sono quei cofanetti dove dentro ci sono appunto delle cose carine da fare, per esempio andare in un centro benessere, una cena, una degustazione e quant'altro. E allora avete sentito i due incipit, uno di cuore e uno di denari. Adesso collegatevi sul sito di Radio 24, andate a pescare la mascherina dove potete completare, perché gli incipit ci sono, i racconti di cui appunto Andrea Vitali vi ha dato l'inizio, l'attacco, come si dice anche in gergo giornalistico. A voi adesso il compito di completarli. Noi avremo, una volta che li abbiamo ricevuti, una settimana circa di tempo per analizzarli, leggerli con attenzione, giudicarli, scegliere, saranno tutti stupendi naturalmente, ma potremo scegliere con una giuria qualificatissima. Che ricordiamo è composta da... Allora, Andrea Vitali, certamente, noi due anche un pochino dobbiamo guardarli, cioè Alessandra Tedesca e Salvatore Carruba. Esatto, per cui qualificatissimi i nostri giudici, e in una settimana sceglieremo settimanalmente il miglior racconto di cuore e il miglior racconto di denari, e alla fine ci sarà il vincitore su tutti? Sì, ci saranno 12, verrà una raccolta di 12 racconti di cuore e di 12 di denari, e poi ci sarà il raccontone, uno per il cuore e uno per i denari, ma intanto ne parleremo, come si dice, strada facendo. Intanto Andrea Vitali l'abbiamo catturato. Esatto, e noi siamo molto felici. Grazie Andrea. Alla prossima. Per grazie essere a voi. Stato con noi. Esatto. A Gianmarco Ferronati in regia la parte tecnica, a Paolo Corleoni che ha montato quella splendida voce delle donne di Radio 24, che naturalmente non sono solo loro, ma tutte le persone che lavorano con noi, le donne della radio, anche quelle che sono dietro alle quinte. Va bene, la nostra donna Laura Vanossi, certamente, della redazione. Lui che si prende il cuore di queste tre donne isteriche, che Marco Lombardo. A domani, buona giornata a tutti.